attenzione, binario 10, KKKK. M briciola. Briciola. M Artù. E allora? Tutto a posto, sì. Tutto a posto. Oggi era stato facendo commissione in giro. Più tardi, allora. Mi sono preparato l'impasto, più tardi. E come se mai forra la farina. Cosa cazzo è caduto? Vai a vedere. Ah no. Non so, me la succede in nero. Ma io sono qua a casa, sono uscito dalla nostra parte oggi. A casa sei rimasto? Sì, oggi sì. Ciao, pagato. Hai fatto benissimo, hai fatto. Che me la succedi? No, è il cazzo che... Se la si intende la cosa della stazionaria, no? Infatti va, ogni scaramozia, va proprio. Aspetta che attacco il rormato. Aspetta un attimo, Artù. Manco le balle. È perfetto, eh. Ora, ora. Manco si muove. Perfetto qua. Manco si muove, eh. Chi è? Chi è? Beh, Natalino. Ai, quando fai così ti temo. Uia, ecco qua. E me, Brigido. Uè. Mi Antonio. Ciao, Natalino. E allora? Allora, un rapporto. Salotti, capo di Zeorda, Fairè, Salotti, alla grande. Ecco qua. Allora vai via Duccio, così è. Eh sì, adesso ho capito come farla buona. Ho preso anche la pietra, ma a me non va a bruciarsi sotto. Ho messo la pietra nel forno, sicuramente scalda tutta la bara. Ho capito. Tu me lo sparato, mi stai arrivando la taglia. Sì, faccio. Dove va? Dove va sto usando? Sì, sei a fondo scala. Non già entra chi su, sono con due vatti, mi avalla. Qua, così è la potenza massima. E così è la minima. Praticamente 2 watt adesso sono. No, non c'è andato quasi nulla. E perché dopo il 9 per un punto S bisogna raddoppiare la frequenza, la potenza, ma io non ne ho più di 12 watt, mi sembra che dia al massimo. C'ho 2 watt adesso. Sì, ma praticamente nella tenda si vede, capito? Magari, non so, come in alto la mia, magari vede la tua nell'aria, cosa ne so, per quanto tipo lì. Sì, siamo vicini, Antù. Poi la mia adesso è sul tetto e quindi irradia meglio. Prima cosa irradiava? Prima noi irradiava un tubo. Ma nel cammino, cioè da lattidozzi, non è che sia molto, anche se c'è da attraversare via Pascoli, via cosa, non è lontanissimo. Infatti siamo vicini, siamo. Franco lo stesso, ogni volta che entra mi barra tutto, che mi arrivi fondo scala. E lui al monte. C'è una posizione Franco, che volo, invidiabile veramente. C'ha l'antenna uguale alla mia, c'ha adesso, non c'ha più quella Venom brutta, cazzo, dice che lì salivano le stazionarie, si alzava poco a poco perché non teneva watt, non si viene a nuda le antenne. E infatti si è messo la mia, come la mia se l'ha messa, là. Allora, no, no, la mia è perfetta, mia, più mi sono andato in stazionaria, va, ma così muovi l'ago, sempre lo stesso, non è cambiato nulla da quando l'ho messo. messa. E vabbè, è tutta modificata, è tutta sigillata, è tutta cosa, vediamoci se ci dà problemi. Oh, anche qua qua facendo molta acqua, non nulla, manco a fare anticamera. Sì, e se no quella energia che avevo io, cazzo, pioveva, si riempiva d'acqua dove c'è la bobina dentro, no? Cavolo! A due mi salivano le stazionarie, se non di più pure. E non potevi modulare perché era pericoloso. E io ero quella lì perché dormivo, giocavo la prima, li mettevi quella bobina lì, la prendevi, la vulcanizzavi tutta, però che non entrava più era. E no, che era bella vulcanizzata tutta quanta, solo che entrava l'acqua, chissà da dove entrava non lo so, però entrava leva e praticamente gli faceva quel difetto lì. Però quando era asciutta, non so quanto pompava l'antenna, se avessi avuto quell'antenna dov'è questa adesso, guarda, di lusso, ne ha buttato via una anche Marco, un altro amico, così uguale, se li tenava d'acqua, cazzo, e via. Ne ho buttato una io in campagna, lo stesso, chissà mi si è frasigata addirittura. Deve essere la salsedine, come ne saliva dal mare, no? Mi ha ossidato tutto il piele femmina, no? Dove va attaccato il cavo dell'antenna. Lugava in terra, me ne farà due, a rasurami. Per carità, guarda. Un cavolo, infatti, più là, se vediamo come vanno le cose, adesso non può fare giù nulla. Più là mi voglio mettere la Grazioli, perché la Grazioli non è a cavi, non ha niente, è direttamente attaccata al coso, alla spirale, la fa, è direttamente attaccata lì, quindi non ha nulla, mi compreso. Ma è pesante come antenna, la Grazioli mi hanno detto. Non la conosco, è la verità, non l'ho vista. Dice che è molto ben costruita, ma è pesante come antenna. No, ma io prendo l'altra, quella senza radiale. Ah, ho capito. Non la prendo quella con il radiale perché non voglio fastidi. Che massiccia materia. Attavate una che costa 200 euro. Immaginiamoci se non è massiccia. Beh, lo credo bene. Dice che sono le migliori lì, queste Grazioli. Non l'ho mai vista la verità, quindi non ti so dire. Ah, quelle che ho detto, come quello schifo che ho visto ieri, non ne hanno, no. Quelle sono proprio, c'hanno da fare, c'hanno, attaccato direttamente alla molla. Si deve avvitare la molla il condensatore, quello che va dove c'è il piede sotto, ma direttamente attaccare lì. Col cavolo quello ti dà problemi. Sì, vabbè, dice che è ben costruita. Ma cosa vuoi ti dica? Ah, ma Roma te si scende per tu, mi sa. La mia lo stesso, gli abbiamo messo un filo grosso, gli abbiamo messo, non un filo grosso, un filo diviso rigido, che ci ho detto, io anche andato bene, è stata tutta modificata quella che io, e addirittura anche rivettata, col capo non gli ha fatto niente il vento, ma non riguarda nulla. Ho capito. Capito, la terra. Va bene, finché io ancora non compare più nulla, no? Poi più là vediamo, o se ci metto quella senza radiale, il dagli radiale non la voglio. Troppo pesante, troppo. Probabilmente di scatola a montare il montaggio. E se no quando c'avevo quella mantoba turbo, tre volte ne l'ho dovuta scendere. Perché ogni tanto si faceva che cosa. Quindi di raggio lampada. Uno schifo, non hai visto il filo che c'era ieri, quella l'ha mandato a turbo, quello che ti ho mandato. Sì, ho capito. Qui, cazzo, il piattello dove erano attaccate le antenne mi si è tutto quanto ossidato, cesso, com'era quella mantova a turbo. Laggio tutto burito, tutto vato. Però d'orra, mi era fatto d'orra, tutto arrugginito, si era, un macello. Lì deve esserne sale l'aria del mare, mi, e porta la salsedine. Cazzo, si praticheggiano in chibi d'antenne. Io come te la 5, però. Sì, no, cazzo, non so neanche se c'è più, boh, se ne farà, da cosa ne so. C'aveva 2 mesi quando me ne sono andato. Cavolo, era nuova, con la mantova 5, la bibliata nuova e piazzata. Vabbè, non lo dire, ti ho però detto della parte nera di buttata la giù, cazzo, di ci andata là. E sopra un palo da 12 metri, mi. Non è uno scherzo, prima bisogna abbassare il primo pezzo che ne scende quasi a terra, nel tetto, e poi bisogna staccare il palo lì. Cosa vuoi ti dica? Non me ne sbatte niente, poi a me verrà detto non le posso di nulla, che sei malamara con tutti. Ah, ancora tu sei sete. Se no non me ne sarei andato io, me l'ho dovuta affittare la casa. Capito? Proprio per non andare a cozzare con loro, che se no... Se con l'altro, con quello che abitava a Torre, per poco venuti alle mani, figurati. No, no. Poi io mi conosco, sono mezzo basso, la crisi di rinivi, non capisco più niente, sono cavoli acidi. Prima di fare qualche cazzata è meglio non andarci lì. Ma poi ti sei pigliato la roba dura, no? Che ti sei pigliato questa cosa, no? A cui? Cosa me ne faccio della manta? È troppo pesante. Anche se è buona, è troppo pesante. Come ti antenna. Qua hanno aperto appena appena il tetto, ne ho subito approfittato, se no non ci potevo più salire, perché non si può salire da nessuna parte qua. Ha aperto una specie di bottola, quello del terzo piano, dell'ultimo piano, e sono saliti 2 amici miei e me l'hanno piazzata. Nel caso ci sia qualche problema, come fai? Non ci puoi salire sul tetto, te lo sto dicendo. Ha rimesso le tegole, è quello. E... bisogna poi aprire il tetto per poterci salire. Beh, nel caso c'è qualche problema, cosa devi fare, Natale? Devi riaprire il tetto. Beh, per forza, bisogna vedere se quello te lo apre il tetto, capito? Poi è tutto bravo, qui non vuoi gli azzanghi, sa gabicchiuria, mamma mia. Se no si fa il danno, lo vado in bagà a me, compreso là. Lascia di benchi l'antenna e sopra un palo d'acqua di quelli zingati. C'è l'antenna TV nuova e l'antenna del baracchino, ah, se no aggiungo il sastro in chili, quindi non aggiungo alzare né a fare manutenzione né nulla. Nella Game Master non c'è bisogno di manutenzione a chi inverte un resina, quindi... Finché dura, da voi. E infatti, finché dura, dura. Finché la va, la va. Compreso. Quando non va, non va. Quando ci può salire già, ci sono 2 volte siamo saliti a mettere questa anche adesso, la terza volta a mettere moderatamente, se no tutte di nuda che muovisa, se mettiamo direttamente la creazione la terza volta, però finché dura non ne frega niente. E infatti già si scende lei a futtidini. Sì, domani chiedo se ti dica che cosa, al limite te la cambi, ma se l'hai isolata bene. Oh, vabbè, la mia era isolata bene, ma te sì, tutta con un altro vulcanizzante, tutta vulcanizzata, eppure entrava l'acqua con quella energia. e gli c'era diluso l'antenna, perché c'era Marco Condor, non so quanti anni ce l'ha, e da lui acqua non entra. Dice che l'hanno isolata al massimo con l'antenna. Qua anche la mia era bella isolata, io non sono uno stupido, l'ho bella isolata, gli ho messo il nastro vulcanizzante, sopra il nastro vulcanizzante ci avevo messo il nastro normale. Qua piume da vulcanizzata, di come si da vulcanizzata, tutte le giunture belle fatte, eppure cazzo entrava acqua, non so da dove entrava, l'ho regalata a un amico quell'antenna. Che lupo avrà entrato, sarà stato entrato sicuramente, ma qualche posto entrava, perché è impossibile, ti dava quel difetto. E poi cintava, a chi diceva se chi veniva da Padmuru, Rucu, ma farà Nireva, veniva da Pad, e quindi rimaneva un bel acqua lì, capito, non scendeva subito. Sicuramente è stato tappato il buco di leva, però quello dentro la leva è stato tappato. Chi chissà cosa c'era dentro? Quell'amico mio gli si è piazzato la game mat, non è piazzato di quella, capito? Non si sa mai. No. Allora chi me la cura? Chi che ce la dovrebbe avere quell'antenna? Ma cosa cazzo? Non ne varirà bene. Si è piazzato la Game Master, ti sto dicendo, proprio per non avere problemi. È contentissimo. Cappa. E chi se ne cosa vogliamo? Una va smontata la cosa da. Calcolate come c'è quella qua, eh? Ho messo tutto l'isolante lì messo, perché sicuramente non fa entrare neanche un goccio di acqua. E oppure togliere la protezione che c'era e vulcanizzare la bobina direttamente e lasciarla col nastro vulcanizzante, e non si bagnava più che così, non potevi fare, e così dovevo fare, capito? L'acqua non se ne fermava lì, perché se non c'era la protezione non si fermava da nessuna parte l'acqua. Se poi la bobina era bella vulcanizzata o leva non la ducava. Sì. Quella già è leggera, non è pesante come antenna. Quella già, un pensierino per quella che ce l'avrei fatto sicuro. Perché no, non è un'antenna pesante. Sì, infatti. E poi pompa voce buru come antenna. Chissà, pompa voce a vero. C'ha tre radialini piccoli, c'ha, che saranno un metro l'uno, non di più, e pompa voce. Surghi, a me mi faceva quel difetto, io non ci potevo salire sul tetto per poterla, poi non era neanche sul tetto la mia, era in facciata. In più era bassa, non irradiava. Se sarebbe stata sopra un palo da 4 metri come questa qui, che irradiava bene, gli intendivi matracchi, chissà Energy gli parava voci, solo che voleva fatta dalla prima, capito? Lo so. Dite, sì, tutti la compareggi una righi, sì. Una seconda mano già me l'aveva pigliata, sarà molto pesante. E li vulcanizzi la bobina e da quella piazza sul 7000 veru e pompa di russa veru, perché 5 ottavi e pompa, c'è anche quella senza radiali come quella lì. Ma già pompava una tessina lì, ma razzo, sì. Sì, infatti. C'è la Marcolino Condor con l'antenna, la Energy. A lui gli va benissimo, ha detto. C'era un po' di anni, c'era. Sì, infatti, è per quello che sto dicendo. Lui e lui l'hanno bella vulcanizzata, non so cosa gli hanno fatto, e non entra nulla. da me entrava acqua, un altro amico mio, lo Mattesi, tira la lampada, io ne ho crepato due di quelle antenne, figurati. Eppure Marcolino dice che gli va bene la sua. L'unica cosa è che ti compri quell'antenna lì e poi gli fai quel lavoretto, gli togliere proprio la protezione in modo che l'acqua non si possa fermare nella bobina. E vedrai, tu problemi non hai mai, perché tu quando gli metti il nastro vulcanizzante nella bobina è pura e sana l'antenna. Un cazzo non entra, No, perché non ha posto per poter fagnare l'acqua. Perché se tu gli togli la protezione non può stagnare da nessuna parte, in più gli vulcanizzi la bobina e l'acqua non la tocca per niente. Se noi buoniamo i bombi sommersi, con i contatti elettrici, con la corrente industriale, in mezzo a leva, non entrava leva. Figurati. Non so, cosa. Il coso ci vuole... non so se è che è un casino metterlo, se no se li metti la guagnata non restringente in me. Allora, lasciuti col phon, cioè col phon, la scaldi con quei phon, e quando entra Eva, se si può mettere. No, non si può mettere, perché se vuoi mettere quella lì bisogna che abbi la guaina di quella misura lì e devi smontare tutta l'antenna, lo stilo devi smontare proprio. Per poterlo fare quello che stai facendo, dicendo tu, però il nastro vulcanizzante lo puoi mettere. Quando ne togli la protezione, cosa avevo a punire un nastro vulcanizzante? Chi? Proprio nulla, no, non ci vuole niente, no. Ma quello ti dura anni, no? mai problemi. E infatti, l'unica cosa è che devi tirare alla metà il nastro vulcanizzante, il segreto è quello, che devi tirarlo a metà e lui si attacca bene. Poi ricudi un giro di nastro isolante, sobra al nastro vulcanizzante e stai tranquillo tu che ti dura una vita quell'antenna. Lo so già. Io se ne busco una, sì, può essere, la modifico, ma mi metto quella, cioè mi metto tutta bella saldata, tutta bella cosa, mi metto quella lì e niente di strano. Se ne busco una. Adesso vediamo. Sì, quella è leggera, Emmy, come antenna, quella lì ti viene bene. Ti viene, cosa bisogna dire? Che a comprare la nuova costa un sacco di soldi, mi sembra me l'avevano fatta pagare 90 euro quell'antenna, non ti gridi che me l'avevano fatta pagare a poco, l'avevo pigliata a Donino, la Ghisuladru, cazzo. Non è che tanto, costa di meno della Game Master. E quello sì, costa di meno della Game Master, sì, perché la Game Master l'avevo pagata un po' di più, però le soddisfazioni che mi ha dato la Game Master non me le ha date neanche la Manto. Ma c'è qualcuno che sta chiamando, avanti, sembrava che c'era qualcuno che stava chiamando Mattarino. Ma non sento nessuno, io ho tolto lo squelci pure. Ma cosa preparazione, ce n'era uno che l'ho sentito. E quando stavo parlando io magari è arrivato qualche colpo di propagazione. Cazzo, io ho parlato con tutto il mondo, si può dire, con questa Game Master. Ho parlato con la Scozia, il Regno Unito, Irlanda, cosa non ho parlato? Con i Paesi Bassi, Scandinavia, Turchia, cosa non aggiungabile? Russia, poi ho parlato non me la mento, un sacco, un agio, dimmi, allora devo dire. Ho parlato con tutti, cazzo, di Gianova e Meripudiani. Giuseppe, Burabà, insomma. Sì, lo so. Lo so che ci sono, magari sono nel canale di chiamata internazionale, io andavo lì, li chiamavo, oppure dicevano la frequenza dove si stavano spostando. Io li seguivo, li chiamavo e mi rispondevano. Ma pure qualcosa qua in DX, una volta mi sono fatto a Porto, in Sicilia arrivavo forte, ora con Moscava arrivavo. Sì, cosa vuoi che sia, quando c'è propagazione arrivi sparato da tutte le parti. Ho fatto un anno che c'è la propagazione, quella da fuori, mi ha dato parecchie soddisfazioni. Ho collegato molte stazioni, però io quindi non ricollegherò perché non ci capisco niente, la verità. Ti dico la verità, ti dico, non mi comprendo nulla. Perché parlano tutti in inglese, parlano, capito? Tranne i francesi, tutti gli altri parlano l'inglese. Allora noi arrivavamo forti anche 9:20 fanno qualche volta. Io avevo provato in DX per quelli che ci ho potuto parlare, cioè, perché gli altri non ci capisco niente, quindi ho dato parecchie soddisfazioni. Quello ho visto poi un'altra casa, arrivi a Bomba in tutta Italia, arrivi a... E io con l'Italia ci ho parlato poco, perché non ne sentivo italiani quest'anno, ma tutti gli altri di fuori, il Canada ho collegato, Nord America, cazzo, cosa hanno già collegato? Di tutto, cioè, ho collegato un bel stazione, ho collegato, ma a Bomba mi arrivavo forte. Tanti posti, tanti. L'anno scorso mi sembra gli italiani li sentivo, quest'anno Nisba ancora, non ne ho sentito, cioè uno da già sarebbe, e mi ho fatto, due ne ho sentito, però erano sardi e ci siamo trattenuti a parlare un bel po', però erano di Noghi, sardi, non erano né italiani, proprio non ne ho sentito, la verità. No, mi è capitato, però qua a Calabria, qua a Sicilia, con l'Umbria, un anno è successo che, mi sembra 2 anni fa, quando io qui avevo montato l'antenna che abitavo lì, avevo montato proprio questa. Cazzo, ma mi divertivo forte, mi divertivo. Che poi arrivavo più forte di tutti io, non si sa fa cosa. Arrivi a Bomba, in Sicilia, quando scala proprio. Incredibile. Sì, anche io 1 o 2 anni fa lo stesso li sentivo, quelli dell'Italia. E li collegavo. Sì, Giulio, quando vi vada, arrivi a casa, io. Vabbè, anche con 2 quarti già si può arrivare. Io avevo problemi, io arrivavo a fondo scala, sempre a fondo scala. Se vuoi dire che tu ti aggiudavi, va mica che segretaria, bello è arrivare senza niente. Con 2 watt io, perché c'ho l'apparecchio uguale a quello di Marco Condore e di Giulio, e si può abbassare fino a 2 watt. Infatti io sono sempre con 2 watt per parlare con Sassari, se no non c'è problema a salire un po', ma più di quel tanto non posso salire, hai capito? Cosa aumenti, 1 o 2 segnali? Sì, lo so. Vabbè, la verità era andendo un bene, la verità è. Arrivavo fortissimo, arrivavo. La verità è che c'avevo quel vizio, soprattutto quando ero là nella casa, ero sempre a Bomba, ero. Sì, già lo so, non è che non lo sappia, non c'è bisogno che lo dici, no? Adesso qua è un po' più limitato perché ho la posizione, sono più in alto, sono più ora, quindi i watt sono un po' più bassi, capito? Non è più come prima. Infatti, poi nei canali normali io di X, no, solo se sono magari in ruota che lì c'entro, allora sì, ma se no me ne vado nel canale di chiamata internazionale e parlo lì. Ma per caso il 22? No, è il 12 lì su, il canale di chiamata internazionale, 27 555. Ho capito. Manda laterale. E parlano tutti in inglese, però se tu non sai parlare in inglese è un casotto. Una volta già succedo, Franco, California, mi si è spaventato, perché mi ha sentito parlando in inglese e tutti mi rispondevano. Luca Pudi, che lo sa lo stesso, non ne capiva un tubo, mi seguiva, cosa ha detto? E Dio mi ha detto così, così e così. Lì, gatto, il più delle volte anche gli italiani parlano in inglese, quindi bisogna che conosci la lingua, se no non fai nulla. Magari se uno italiano ti sposti con lui e parlate in italiano, ma se no nel canale di chiamata internazionale parlano in inglese. Qui sono i tedeschi e parlano l'inglese, quindi lo stesso a loro gli viene bene a parlare l'inglese. I francesi che parlano in francese, boh. Anche io sai parlare inglese. Se coincide sì, ce la sentiamo più tardi al limite, ciao Antura, alle prossime. Almeno un'oretta vado a fare un bisolino. Sì, anche due. Mi sono a cavare un giro. Beato te, io non sono uscito per niente invece. Ti a girare, adesso vado e mi porto il cane. Ciao. Ok, là va a fare. Ciao Antu, ciao. C'è qualcuno su 10? Mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi dai buccio, mi Antonio, la Genovese K. Dimmi lui. No, ti chiamo Antonio. Ma è cosina, quindi... Sì, ma niente, sì, anche un gioco. Ah, tu, fuori già la chizza, me. Sì, ahi, aspetta che vado, se no vi acquisizio tanto il microfono. Inchia, lui, l'ho guardata sotto, cazzo. Lui, cazzo, cucina molto meglio. Qua la puoi mettere anche sul fornello. Capito? La puoi mettere anche sul fornello. E facci tipo le piadine, quelle robe lì. Cazzo, sta cucinando bene la fine, cioè l'ho guardata sotto, prima cosa, se lo mettevo a forno alto mi si bruciava, adesso c'è tutta bella compatta, minchia, mi sa che ho indovinato, è la mia, quella che faccio io, quella che faccio io non mi fa manco male, non mi fa, cazzo, la compro da fuori, sempre in bagno. Allora ti ho detto io. Ho sulla riva a dratto, vero me. Cazzo, una bomba, sta cucinando bene. Cazzo, non è che si guate quanto cazzo guadagna dalla farina, ma te immaginerci. È troppo, Era la fatica in Verrosello, più con 4 euro una tricetta piccolina. Cioè, io con 4 euro le faccio a bizzeppa. Non ne pago gas, quindi non è che sono in appunto. Se poi riesci a prenderti quel forno come ce l'ho io, apposito, allora sì che ti devi. Cosa lui? Se riuscirai a prenderti quel forno come quello che ho preso io per le pizze, pane, faine eccetera, allora sì che ti devi dirti. Certo, no, io appena adesso vabbè sono un po', come si dice, un po' pecchendina, diciamo. Un po' balordo, però appena mi guardi mi dirà, meu figlio, così mi posso la pizza, mi posso tutto, la preparo a casa, e la sera ne porremo. Parla bene. Rudy, come te la porre la roba per fare un porno? Domani, una settimana stesso, faccio un po' di passature che non ne ho più. Che poi che fa? Resettare un po' l'occiamente. Solo la cosa pubblica. Forse è una cosa. È quasi pronta la situazione. Ma ti mando una cosa, questa pure conviene. Ehi, a prova, non manda, ma lo dai, che io vado un attimo in cucina, se no mi si brucia tutto, sono stato attento.